fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per raccontarsi e per raccontare il claim della nostra radio all'1:23 del mattino, sabato 23 giugno del 2018, io sono Master Nick e per raccontarsi e per raccontare è la frase che utilizziamo per far sì che i nostri sposi, i nostri protagonisti ci dicano un po' qualcosa di loro. E adesso voliamo con un volo intercontinentale da Brescia a Bergamo, quindi il volo è durato 4 minuti, e per andare a trovare la nostra sposa Elisa. Elisa, buonasera, benvenuta. Allora, Bergamo dicevamo perché tu vieni da? Da Bonate Sopra. Bonate Sopra, immagino ci sia anche un Bonate Sotto. Sì, no, c'è anche Bonate. Così, per interpretazione. Allora, siccome io so che tu ti vuoi candidare sindaco di Bonate Sopra tra qualche anno, raccontami perché Bonate Sopra è meglio di Bonate Sotto? Ah, guarda, non ne ho idea, mi sono appena trasferita. Che sfiga. Niente, io ci ho provato, ci ho proprio beccato la... Vabbè, insomma, sei trasferita per diventare futuro sindaco. Allora, facciamo così, cosa hai trovato di bello a Bonate Sopra? È un bel quartiere, bella gente. Quartiere, quanti abitanti fa? No, sono tanti. Infatti è un bel quartiere, pensavo che fossero 50 persone, no? No, no, però dove sono io è una bella zona. Ah, ok, tu parli della tua zona, certo, certo. Sì, sì, sono tutti giovani, ci vogliamo tutti bene, andiamo tutti d'accordo fino adesso. Quindi, sì? Sì, okay. Sì? Ho visto degli occhi aprirsi, no, non era vero. E poi tra le altre cose, adesso io ho capito perché Elisa si è trasferita in un quartiere piccolino, un po' nascosto, perché per la professione che fa non si deve far trovare, essendo un po' l'incubo di tante persone, quindi se sapessero dove si trova sarebbe pericoloso. Perché raccontaci un po' cosa fai? Faccio la professoressa di matematica. Professoressa di matematica, dove? Che me l'hai detto prima, chiaramente in un liceo artistico linguistico alla Traccia di Calcinate. Ok, quindi parlavamo prima a scuole superiori, sì, che è tipo superiori. Il festival dell'ormone, esatto. Latente per 9 mesi all'anno. Esatto. Di solito non si fa, ma mi permetterai di farlo. Sei giovanissima, quanti anni hai? 29. 29, già, ma già di ruolo o... No, vabbè, ovviamente sono precaria. Vabbè, perfetto, è perfetto, anche perché esatto, la professoressa è precaria a vita, no, esatto, è uno status symbol, è uno status symbol. Anzi, io mi vergognerei quasi a essere assunto. Perché esatto. Sarei fuori dalla categoria, cioè mi sentirei la pecora nera della categoria. Non saresti un vero professore. Brava, ci vuole sempre un po' quel brividino sulla pelle dell'incertezza. Certo, dell'incertezza. Certo. E cosa ti affascina di questo mondo? Perché è particolare? In pochi scelgono questa strada, soprattutto la tua età. Cos'è che ti ha affascinato? I ragazzi però stimolano, cioè sono, è un bel lavoro perché ogni giorno è diverso dall'altro e loro ti tengono giovane, insomma. Beh, bello, mi piace questo che loro ti tengono giovane. Cioè, quindi laureata in matematica, immagino. Sì, sì, sì. Mi piace. Hai sempre voluto fare questa cosa, quindi. Sì, sì, fin dal liceo insegnavo già la matematica ai miei compagni che non la capivano, quindi ho detto devo fare questa cosa. Perfetto. Che, e quindi immagino il rapporto un po' di amore e odio che i compagni abbiano avuto con te nell'arco degli anni, perché amore chiaramente amore. Perché hai salvato la vita a tante persone. Odio perché comunque eri sempre lì a bacchettare, non si fa e non si deve, non si è qui e là, è sempre pronta, sempre preparata. E non ti è mai venuto in mente invece di fare tipo l'ingegnere o no, qualcosa legato al calcolo matematico? No, niente. Con i ragazzi, con i ragazzi. Ti piace, sì, gli piace, sì, quel mondo lì. E cosa stai festeggiando da noi stasera? L'addio al nubilato. Hai detto con meno entusiasmo del tuo addio al nubilato rispetto al lavoro che fai. C'è qualcosa che non va? No, sono contentissima. Guarda, poi detto così, io guarda, mi sto immedesimando nel tuo fidanzato e futuro marito e ho già fatto le valigie per il nulla. Guarda, ho passato la mattina a stirare per quello che dico. Ah, è chiaro, è chiaro. Beh, così, e d'altronde la vita da professoressa. So già cosa mi aspetta qui. È passato la mattina a stirare, mi piace che il sabato mattina è il giorno della faccenda di casa. Esatto. Della faccenda da casalinga. Sì, sì. Ma beh, immagino quindi che non sapevi di questa serata. No, assolutamente, anzi dovevo vedere il mio DJ per le nozze oggi dopo pranzo e invece sono stata rapita dalle mie amiche. E il DJ là che ti aspetta ancora, lì con l'orologio dice boh. No, oh. È stato già contattato. Ah, ecco, ok. No, io me l'immaginavo ci ho. Oh, carina sta Elisa, simpatica, gentile. Oh, però che cacchio, sono qua da 4 ore e non si è ancora presentata. La puntualità, la correttezza. No, vabbè, è stato avvertito. Bene, bene. Quindi DJ al matrimonio. Le fai ballare? Certo. Sì? Sì, sì. Io ti pensavo alla professoressa, tutta bella. Elegante, tutta bella posata. Scuola è un altro mondo. Ah, ok, ti distingui. Tra l'altro mi fa un piacere, redarguisci le due alunne che stanno chiacchierando. Ciao, Ralo. Allora, che si distraggono durante la lezione. A proposito di alunne, chi ti accompagna stasera? Ci vuoi dire chi c'è qui con te? Certamente, allora c'è mia sorella che è la mia testimone, l'altra mia testimone che è una mia amica dai tempi del liceo. No, pensavo l'altra mia testimone che è una mia sorella. Pensavo che si scambiassero i ruoli ogni tanto, ok? La mia cuginetta piccolissima che invece ormai è cresciuta, ma per me è la mia cuginetta. Sì, era lì fuori che frustava gente, esatto, non l'hai vista, sì, non ti sei accorto, sì. Picchiava gente a caso. E un'altra mia amica che ho conosciuto già con il mio futuro sposo, e quindi... Che non conta nulla. No, anzi, amica preziosissima. Ci hai parlato di tutte con degli aggettivi superlativi, poi vabbè, un'amica che ho conosciuto adesso vabbè, no, insomma, invece... È qui, poi... Meno male che l'ho trovata insieme agli amici del mio... Sì, no, pensavo un'altra roba di voi. È qui, alle prime occasioni, i saldi estivi, le faremo trovare un altro gruppo. No. Assolutamente. Compagna di vacanze. Compagni di vacanza addirittura, tipo, che ricordi hai? Siamo andati a Minorca. Poi in Puglia, Gallipoli, in Toscana, sì. Da quanto vi conoscete? Ormai 6 anni, quando sono stati insieme. Ah beh, ho tanto tempo, no? Pensavo fresca. No. Beh, avete già fatto dei bei viaggi, brava. E a proposito di viaggi, ti piace viaggiare? Sì. Qual è il posto che ti è piaciuto di più? Allora, fino adesso... Minorca, Barcellona, La Spagna, la zona spagnola. E il posto invece che vorresti visitare, vorresti vedere? È quello che vado in viaggio di nozze, le Maldive. Ah sì? C'è una, non dico tradizionalista, però da paradiso, ecco, sì, da paesaggio paradisiaco. Sì, bene. Non sono avventuriera, non piace. No, tranquilla, ti piace la bella vita, ci sta, esatto, ci sta. Sì. È una cosa che avete condiviso o ti sei imposta tu da buona professoressa? Assolutamente condiviso, se no sì, non lo sceglievo. Ah, quindi diciamo che... Allora, come si chiama il tuo futuro marito, scusa? Paolo. Allora, ciao, come ti chiami? Paolo. E tu, Elisa. Ciao, è un piacere conoscerti. Vai in viaggio di nozze alle Maldive, vero? Sì, mi piacerebbe. Ok, possiamo conoscerci meglio. È andata così? Esatto, uguale. Quindi, requisito fondamentale per sposare Elisa, dovesse andare male, speriamo di no, è fare un viaggio di nozze alle Maldive. Esatto. Per il futuro lui, che potrebbe magari un giorno inserirsi. Esatto. Mi piace questa tua, questo tuo sentimento per l'essere umano maschile. Mi piace questa tua... Sì, e dobbiamo condividere queste passioni. Pensa che io ti vedevo così pura, così, e così carina, così dolce. Invece... Lo sono. Ah, ok, lo sono. Con chi va alle Maldive? Esatto. Con chi va alle Maldive e gli altri possono... Se andiamo in montagna, no, non è la persona. Non è da camminata, Lisa, non è da scarpinata. Infatti le mie amiche mi hanno portato qua, ci sta. Vabbè, ci sta, certo. Non ha neanche una scarpa col tacco, solo infradito. Nel suo armadio, solo infradito. E ballerine. E infradito, oh mamma mia, infradito e ballerine. Guarda, perdonami la sincerità, sei veramente l'apice della sensualità. Assolutamente sì, comoda e basta. Veramente bellissimo. Cioè proprio i picchi di sensualità che si sono toccati in queste 4 parole non si sono toccati, penso, da quando l'umanità esiste. Quindi ti ringraziamo di aver acceso la libido di tutti gli uomini all'ascolto, che insomma sono diventati tutti omosessuali in questo momento, hanno deciso di cambiare sesso grazie a queste belle parole. Perché ricordiamo, noi del convento lanciamo da anni una campagna sociale: la ballerina uccide l'amore. Quindi ricordatelo bene, donne all'ascolto, la ballerina uccide l'amore. Tenetevelo bene a mente. Però io mi sposo lo stesso anche con le ballerine. Vabbè, tu sei nazista, ecco. Perché tu l'hai obbligato ad andare alle Maldive, l'hai obbligato qui, l'hai obbligato là, l'hai obbligato a prendere in compagnia lei perché ti stava simpatica, andavate in vacanza insieme. E quindi è normale che alla fine ti abbia dovuto sposare. Cos'altro doveva fare, poverino? Va bene, allora, visto che abbiamo chiamato in causa spesso, vuoi dirgli due paroline al microfono, ti va? Paolo? Se vuoi, ma anche a, non so, al sindaco di Bonate Sopra, certo, se vuoi. Certo, allora, Paolo di... Ah, Paolo, io pensavo al sindaco. Paolo che se ne frega, però il sindaco di Bonate, no. Paolo. Dai Paolo, fai il bravo, intanto che non sono a casa, perché dai, tra poco ci sposiamo. Io l'ho detto che è nazista, cioè guarda che non è che me le invento le cose. Io le cose romantiche le dico. Poteva dire quello che voleva, ha un microfono, una radio a disposizione, dai Paolo fai il bravo, cioè, se no son botte. Dai, facciamo salutare anche le tue amiche a giro. Ciao. La sorella. Mi piace questo, si vede che siete tutte amiche, questa capacità di eloquio e di interesse per il mondo esterno. Sì. Ciao la sorella. Ciao la cugina. Siete un gruppo fantastico. Io non vedo l'ora di uscire insieme a voi per vivere proprio delle... Dove va? C'è anche quello lì, funziona anche quello. Sono la stessa cosa. Ciao. funzionano uguale. Scusate, mi chiamate una comunità di recupero per la ragazza, per favore, che ha bisogno di... È l'amica dello sposo. È la migliore, assolutamente sì. Prendi fiato. Grazie convento e buon matrimonio, Eli e Paolo. Oh, vedi che lei comunque si è spinta oltre. Vai, regalaci delle emozioni. In matematica a scuola, buon matrimonio e buon addio al nubilato. Perfetto, quindi lei è quella che ti rovinerà il domenica pomeriggio quando non si ricorderà le equazioni e ti dovrà chiedere dei ripassi. No, basta. Ah, basta, non ti servono più, non il ti servono. Il liceo è finito. Il liceo è finito. Bene, e con questa frase, il liceo è finito, salutiamo anche tutti gli alunni della nostra Elisa, e che ha dato questo grande insegnamento di vita. E detto questo, vi lascio andare a ballare, a terminare questa bella festa, questa bella serata, anche perché ci sono dei morti che camminano lì davanti che aspettano di essere riconquistati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esatto, sono lì che vi guardano. Ah, due sono vuoti, esatto. Due sono vuoti, sono lì che vi guardano e vi aspettano caldamente. Allora, ragazze, grazie ancora e alla prossima!